Vorrei chiedere al genio della lampada un'occasione per mio figlio. Vorrei domandargli se lui, che esiste da sempre, ha mai compreso, ha mai provato tutto il dolore del mondo. Il dolore, il grido silenzioso di una madre per il proprio bambino disabile, o, come si preferisce definire oggi per non turbare troppo menti e cuori, diversamente abile. Il dolore di vederlo crescere ogni giorno senza una speranza per il domani, senza un progetto per il futuro. Ecco cosa chiedo a te, genio, se esisti, se mi ascolti. Non di esaudire il desiderio alto ed aulico di far cessare la fame nel mondo, che divora e strazia la carne, non le guerre che insudiciano l'anima e la dignità dell'uomo, ma soltanto quello di dare un senso a questo calvario quotidiano che scuote in ogni momento della giornata sia la carne che l'anima. Ti chiedo soltanto di illuminare un cammino buio e tortuoso con la luce della speranza. Quella speranza che un giorno il mio bambino, che ha vissuto e vive tutta la dolcezza ed il tormento di questa esistenza con quieta dignità e determinazione, possa divenire un adulto capace di comprendere il dolore e la tristezza degli altri, aiutandoli a divenire persone migliori. Perché se solo si riuscisse a guardare il mondo con gli occhi di un bambino disabile, che non hanno filtri o barriere imposti dalle convenzioni sociali, si scoprirebbero ogni giorno nuovi spunti, nuove piccole cose per cui gioire e rallegrarsi. Ecco perché la mia è una richiesta d'amore. Ecco perché ti prego di esaudirla. Claudia.